Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È l'ultima della settimana, poi ci prendiamo una pausa per il weekend, o meglio, me la prendo io. Voi potreste decidere sabato o domenica di ascoltare comunque Eclettica grazie al podcasting nel momento che preferite. Eclettica è invece presente tutti i giorni, fra lunedì e il venerdì, fra le 19 e le 20. Giulio Caperdoni, in vostra compagnia, è raggiungibile appunto in quegli orari o via Ether, le normali frequenze terrestri, o via internet grazie allo streaming, oppure anche via satellite grazie alla piattaforma di Sky. Trovate i dettagli sia sul sito www.radiorockfm.com che anche su myspace.com/eclettica. Gennaio. È partito. La nave salpa, sbuffando il suo monotono fumo sullo schermo del cielo. Fischia, ansima, se ne va, portandosi via Monsieur Presle, il mio professore di lingua francese. Ho sventolato il fazzoletto e ora lo inzuppo di lacrime prima di stringerlo stanotte tra le gambe, sul cuore. Oh God, chi mai conoscerà il mio tormento? Chi mai saprà che Monsieur Presle porta con sé tutta l'anima mia? La quale è certamente immortale. Non mi ha mai fatto niente, Michel, Monsieur Presle, voglio dire. So che gli uomini della sua età fanno certe cose alle ragazze pazzerelle della mia. Quali cose e perché? Lo ignoro. Io sono vergine, vale a dire non ho mai subito manipolazioni. Terreno vergine, terreno che non ha mai subito manipolazioni, dice il dizionario. Monsieur Presle non mi ha mai toccata, soltanto la sua mano sulla mia. Talvolta essa mi scivolava lungo la schiena per darmi qualche leggera pacca sul popò. Semplici gesti di cortesia. Mi ha insegnato il francese e, con un'ostinazione, me l'ha insegnato non proprio tanto malaccio, poiché in suo onore, in ricordo della sua partenza, intendo dire, mi accingo da oggi, ora, a scrivere il mio diario nella sua lingua materna. Sarà il mio scritto di francese. E l'altro, quello di inglese, lo sbatterò nel fuoco. Questo era l'incipit del diario intimo di Sally Mara, di Raymond Queneau. Thank you. Prepare the catapults. Whoa, Octavius, hold on. This ain't your fight. This here giant's on our land. Hey, little guy. Jed. Yeah, sorry. Look, I'm not a giant, okay? I'm just like an average size... Don't talk down to me. I'm not a giant, guys, all right? You guys are really little. We may be small, but our hearts are large, metaphorically speaking. Don't take that the wrong way. I'm just saying you're miniatures. Silence! Thank you. Finalmente, dopo alcune settimane un po' anonime, senza cioè un pezzo che richiamasse particolarmente l'attenzione, e dopo il primo ascolto ne richieda subito un altro il prima possibile, ecco i Fuck Buttons. Alla splendida suite Love for Planet Earth bisognerebbe dedicare uno spazio giornaliero. Questo mi scrivevano Fabio e Sli nei giorni scorsi. Ho chiesto qualche giorno fa di essere più interattivi con Giulio e RadioRockFM.com. Fabio e Sli hanno colto nel segno. Hanno colto nel segno sottolineando come da settimane non riuscissero ad uscire da ascolti anonimi e grazie ai Fuck Buttons, giudizio soggettivo come tutti i vostri e anche i miei giudizi, ne sono usciti. Sweet Love for Planet Earth è proprio il pezzo che ci siamo appena ascoltati. In apertura invece della trasmissione di quest'oggi era stato Atlas Sound ed ora ritornano i Don Turbolento. Ve li ricordate, il duo bresciano di cui avevamo raccontato anche la storia dei loro esordi ascoltando il loro primo EP? Ecco, mi è arrivato invece il loro album, un album omonimo come si conviene per un esordio, dal quale vado ad estrarre però un brano non originale perché mi piace come hanno rifatto questa canzone. Vediamo un po' se riconoscete la cover. Sì, sì, la riconoscete. Empire knows no boundaries. Steady, man. Oh, you do it, son. Do what? Octavius? Oh. Don't do what? Unleash hell! We do not that love is free, 'cause anything worth fighting for dance and realize that living's a battle. For all the times we cried, absorbed the lies and realized life's not a rehearsal. Stare at the sun can't easily blind you. The only